prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Riprende allora con oggi il nostro appuntamento insieme alla Caritas Diocesana di Padova nella rubrica Prossimo Tuo, un percorso che abbiamo già reiniziato l'anno scorso e che ben volentieri ora dopo l'estate riprendiamo. La prima puntata con il direttore Don Luca Facco, ben trovato Don Luca. Buongiorno a tutti. Dunque, grazie. Percorreremo ovviamente come l'anno scorso diverse attività, diverse situazioni che la Caritas sta proponendo. Intanto restiamo all'attualità, diciamo, più vicina. Un paio di domeniche fa è stato diffuso tramite i vicari foranei un messaggio sul tema dell'ospitalità dei migranti. Vorrei che con te ne riprendessimo i contenuti per capire anche poi quali echi ci sono stati dalle comunità. Sì, c'è stato proprio il desiderio da parte dei vicari forani di ritrovarsi insieme per condividere questo tema, per confrontarsi e cercare proprio la domanda come riuscire a accompagnare le comunità cristiane a confrontarsi sul tema dell'accoglienza dei profughi. C'è stato un incontro proprio con la presenza della prefetta e dei due amministratori locali, e da lì è proprio partito il desiderio, il bisogno, la necessità di, in particolare, di fare formazione dentro le comunità cristiane e di fare informazione. E questo è un primo segnale che è stato dato alle comunità cristiane, questo appello a non aver paura all'accoglienza. Lo ha detto anche il Papa, insomma, nel viaggio negli Stati Uniti in questi giorni, noi americani che venivamo da terra straniera, alla fine non dobbiamo e non abbiamo paura dello straniero. Hai detto il tema della formazione e dell'informazione. Spesso poi su questo argomento, l'abbiamo visto a livello italiano, veneto, ma anche europeo, si reagisce forse un po' a pelle e sull'istinto del momento. Invece è una questione ovviamente molto complessa e che va affrontata con soluzioni che per forza di cose sono complesse. Sì, questa è la realtà. È un tema che tocca tanti aspetti, gli aspetti internazionali, gli aspetti nazionali, gli aspetti regionali, locali, ma gli aspetti anche politici, gestionali, di opinione pubblica, per cui proprio per questo non bisogna semplificare, anzi bisogna approfondire e sempre più dare strumenti perché le persone siano messe nella condizione di poter poi scegliere e valutare nel miglior modo possibile. Allargando il tema, proprio la Caritas Diocesana in queste settimane ha iniziato per tre vicariati, Arzergrande, Montegalde e Villanova, un percorso proprio di formazione e di informazione per coloro che volessero diventare volontari appunto nei territori, nei centri di ascolto vicariali delle povertà e delle risorse. Parliamo un po' di questi corsi. Sì, questo rientra proprio nella nostra mission ordinaria. Se il tema precedente era proprio la gestione, esserci anche nelle emergenze, però poi c'è tutto il tema dell'ordinario. In particolare nella nostra mission ordinaria c'è quella innanzitutto di far crescere le Caritas parrocchiali, perché sono vicine alle persone, sono vicine ai bisogni, esprimono proprio il volto di una comunità che è presente nel territorio, per cui noi lavoriamo innanzitutto per far crescere le Caritas parrocchiali, ma diciamo anche tu Caritas parrocchiale fai tutto ciò che puoi, ciò che sei capace, ma per le situazioni più complesse che intercetti, per i bisogni più profondi e più difficili, ecco che non ti lasciamo sola e il vicariato costituisce un centro di ascolto vicariale proprio per le situazioni più complesse che vengono intercettate a livello parrocchiale, per cui volontari, risorse umane, conoscenza del territorio, quindi la mappatura di tutte le risorse presenti nel territorio e anche la condivisione delle risorse economiche che vengono raccolte durante il tempo dell'avvento. Ecco, specifichiamo, io l'ho detto per intero il nome, centri di ascolto vicariali delle povertà e delle risorse, perché questa precisazione nel nome? Sì, innanzitutto il centro è sull'essere in ascolto. Questo è il nostro primo servizio, questa è la prima realtà che si può offrire a qualsiasi persona, mettersi in ascolto perché sia la persona a dirsi e raccontarsi. dall'ascolto e la consapevolezza che è un servizio vicariale, per cui è un insieme di parrocchie che si uniscono, si mettono insieme, e soprattutto l'ascolto di che cosa? Delle povertà, per cui le diverse tipologie e le tante forme di povertà, perché non c'è solo quella economica, ci sono tante oggi forme di povertà, spesso anche di non conoscenza e spesso anche più profonde che non solo quelle economiche, ma anche il centro di ascolto delle povertà e delle risorse, cioè le persone vanno ascoltate perché sono anche portatrici di risorse, ma anche il territorio spesso ha un sacco di associazioni, di realtà, di opportunità che non sono conosciute, in particolare dalle persone più fragili, più deboli. Ecco che allora l'idea è proprio che sia un centro di ascolto delle povertà e delle risorse, mettere insieme che dall'incontro con le povertà tirare fuori le risorse. Ricordo poi tutte le informazioni, iniziative e attività che sono sul sito www.caritaspadova.it. Allora, con Don Luca Facco, il direttore, abbiamo iniziato questo percorso, ci risentiremo magari in occasioni particolari. Grazie Don Luca, buona giornata. Grazie, buona giornata a tutti voi. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.